Ad alta voce, Marco Foschi legge Doppio sogno di Arthur Schnitzler, traduzione di Giuseppe Farese. In strada dovette aprire la pelliccia. Era cominciato improvvisamente il disgelo. La neve sul marciapiede si era quasi sciolta e spirava un venticello che annunziava la primavera. Dall'abitazione di Fridolin nella Josefstadt, vicino all'ospedale, alla Schrevogelgasse, c'era meno di un quarto d'ora. E così ben presto Fridolin salì la scala tortuosa e male illuminata della vecchia casa, giunse al secondo piano, tirò il cordone del campanello. Ma ancor prima che quel suono antiquato si facesse sentire, notò che la porta era solo accostata. Attraverso l'anticamera oscura entrò nel soggiorno e vide subito che era giunto troppo tardi. La lampada a petrolio col paralume verde che pendeva dal soffitto basso illuminava debolmente la coperta sotto la quale era disteso, immobile, un corpo magro. Il volto del morto era in ombra, ma Fridolin lo conosceva così bene che credette di vederlo con piena chiarezza. Magro, rugoso, la fronte alta, la barba bianca, corta, le orecchie singolarmente brutte ricoperte di peli bianchi. Marianne, la figlia del consigliere, sedeva ai piedi del letto, le braccia ciondolanti, come disfatta per la stanchezza. C'era odore di vecchi mobili, medicine, petrolio, cucina, ma un po' anche di acqua di colonia e sapone alla rosa. E Fridolin sentiva anche in qualche modo il profumo insipido e dolciastro di quella ragazza pallida ancora giovane che da mesi, da anni, sfioriva lentamente, impegnata in duri lavori casalinghi, veglie notturne e faticosa assistenza al malato. All'ingresso del medico aveva sollevato lo sguardo su di lui, ma poiché c'era poca luce non poté vedere bene se fosse arrossita come le altre volte al suo apparire. Marianne voleva alzarsi, Fridolin glielo impedì con un gesto della mano. Lei gli fece un cenno di saluto con gli occhi grandi, ma tristi. Fridolin si accostò al letto, sfiorò meccanicamente la fronte del morto e le braccia che giacevano sulla coperta, le maniche della camicia ampie e sbottonate. Poi si strinse nelle spalle, un po' dispiaciuto, affondò le mani nelle tasche del cappotto di pelliccia, vagò con lo sguardo qua e là nella stanza e infine lo posò su Marianne. I suoi capelli erano folti e biondi, ma aridi. Il bel collo snello, non del tutto privo di rughe, e di un colore giallognolo. Le labbra sottili, come per le molte parole non dette. «Ebbene», mormorò quasi impacciato, «mia cara signorina, l'evento non la coglie certo impreparata». Lei gli diede la mano. Lui gliela strinse partecipe. Si informò doverosamente del decorso dell'ultimo attacco che aveva provocato la morte. Marianne riferì con frasi brevi e obiettive, e parlò poi degli ultimi giorni relativamente tranquilli in cui Fridolin non aveva visto il malato. Fridolin aveva accostato la sedia. Si sedette di fronte a Marianne e per confortarla le fece considerare che nelle ultime ore suo padre non poteva aver sofferto molto. Poi si informò se erano stati avvertiti i parenti. Sì. La portiera era già andata dallo zio e in ogni caso presto sarebbe venuto il dottor Rediger. «Il mio fidanzato», aggiunse evitando di guardare Fridolin negli occhi. Fridolin annuì soltanto. Nel corso di un anno aveva incontrato il dottor Rediger 2 o 3 volte lì in casa. Quel giovane pallido e dinoccolato, con barba bionda, corta e occhiali, docente di storia all'Università di Vienna, gli era piaciuto abbastanza senza stimolare oltre il suo interesse. Marianne avrebbe certo un aspetto migliore, pensò, se fosse la sua amante. I suoi capelli sarebbero meno aridi, le sue labbra più rosse e piene. Quanti anni potrà avere? Si domandò ancora. La prima volta per visitare il consigliere 3 o 4 anni fa. Aveva 23 anni. Allora era ancora viva la mamma. Era più serena allora. Non aveva preso per qualche tempo lezioni di canto. Dunque sposerà questo docente. Perché lo fa? Innamorata non lo è di certo. Né lui dovrebbe essere molto ricco. Che matrimonio sarà mai? Ma un matrimonio come tanti altri. Che mi importa? Probabilmente non la rivedrò mai più. Ora che non ho più nulla da fare in questa casa. Ahimè, quante persone non ho più rivisto che mi erano più care di lei. Mentre questi pensieri gli attraversavano la mente, Marianne aveva cominciato a parlare del defunto con una certa insistenza, come se la semplice circostanza della morte lo avesse fatto diventare a un tratto una persona importante. Dunque aveva davvero solo 54 anni. Certo, con tante preoccupazioni e delusioni, la moglie sempre sofferente, e il figlio gli aveva dato tanti dispiaceri. Come? Aveva un fratello? Sicuro. Ma gliel'aveva già detto una volta. Il fratello viveva ora da qualche parte, all'estero. Nella cameretta di Marianne c'era un quadro che egli aveva dipinto a 15 anni. Rappresentava un ufficiale che galoppava giù per una collina. Il padre aveva fatto sempre finta di non accorgersi di quel quadro, ma era un buon quadro. In condizioni più favorevoli, il fratello avrebbe potuto fare sicuramente dei progressi. Come parla eccitata, pensò Fridolin, e come le luccicano gli occhi. Febbre? Può darsi. È dimagrita negli ultimi tempi. Apicite, probabilmente. Continuava a parlare, ma gli sembrò che non sapesse bene con chi, oppure che parlasse con se stessa. Il fratello mancava da casa da 12 anni, sì, era ancora una bambina quando era improvvisamente scomparso. 4 o 5 anni prima, erano giunte l'ultima volta sue notizie da una cittadina italiana. Strano, ne aveva dimenticato il nome. Continuò così ancora per un certo tempo a parlare di cose insignificanti, senza che fosse necessario, quasi senza nesso, finché all'improvviso tacque. Ora sedeva lì muta, il capo fra le mani. Fridolin era stanco e ancora più annoiato. Aspettava ansiosamente che venisse qualcuno, i parenti o il fidanzato. Il silenzio gravava pesantemente nella stanza. Aveva l'impressione che il morto tacesse con loro. Non perché era ormai impossibile che parlasse, ma di proposito e con gioia maligna. Fridolin gli gettò un'occhiata di lato e poi disse: «Ad ogni modo, come stanno ora le cose, signorina Marianne, è un bene che lei non debba restare più a lungo in questa casa». E poiché ella sollevò un po' la testa senza però guardare Fridolin, «il suo fidanzato terrà presto una cattedra. Alla facoltà di lettere ci sono maggiori possibilità che da noi, in questo senso». Si ricordò che qualche anno prima aveva anche lui aspirato alla carriera universitaria, ma aveva finito per scegliere la libera professione, per la sua tendenza a una vita più comoda. E ad un tratto gli sembrò di essere meno importante dell'eccellente dottor Rödiger. «Quest'autunno ci trasferiamo», disse Marianne senza scomporsi. «È stato chiamato all'università di Gottinga». «Ah», disse Fridolin, e voleva congratularsi in qualche modo, ma gli sembrò fuori luogo in quel momento e in quella circostanza. Gettò un'occhiata alla finestra chiusa e, senza chiederne il permesso, come esercitando un suo diritto di medico, la spalancò e fece entrare l'aria, che nel frattempo si era fatta ancora più tiepida, primaverile, e sembrava portare con sé un lieve profumo dai boschi lontani che si risvegliavano dal sonno invernale. Quando si girò, vide gli occhi di Marianne fissi interrogativamente su di lui. Le si fece più vicino e osservò: «Spero che l'aria fresca le faccia bene. Fa addirittura caldo e ieri notte...» Stava quasi per dire: «Siamo tornati a casa dal ballo in maschera in una tempesta di neve», ma modificò subito la frase e aggiunse: «Ieri sera c'era ancora mezzo metro di neve per le strade». Lei ascoltò appena le parole. Gli occhi le si inumidirono. Grosse lacrime le rigarono le guance e nascose di nuovo il viso tra le mani. Istintivamente Fridolin le posò la mano sul capo e le accarezzò la fronte. Sentì che il suo corpo cominciava a tremare. Poi lei prese a singhiozzare. Dapprima quasi in silenzio, poi più forte. Infine senza più controllarsi. Improvvisamente era scivolata dalla sedia e giaceva ai piedi di Fridolin, abbracciò le sue ginocchia e vi premette contro il viso. Poi lo guardò con occhi spalancati, furiosi per il dolore, e sussurrò ardentemente: «Non voglio andare via di qui, anche se lei non ritornerà mai, se non la vedrò mai più, voglio vivere vicino a lei». Fridolin era più commosso che sorpreso, poiché aveva sempre saputo che era innamorata di lui, o credeva di esserlo. «Si alzi, Marianne», disse piano. Si chinò su di lei, l'aiutò ad alzarsi con delicatezza e pensò: «Naturalmente si tratta anche di un po' di isteria». Gettò una rapida occhiata al padre morto. «Chissà che non senta tutto», pensò. «Che sia una morte apparente. Forse capita a tutti di essere morti solo apparentemente nelle prime ore dopo il decesso». Teneva Marianne fra le braccia, ma allo stesso tempo leggermente discosta da sé. La baciò quasi senza volerlo sulla fronte e quel gesto gli sembrò un po' ridicolo. Si ricordò fuggevolmente di un romanzo che aveva letto molti anni prima, in cui un giovanotto, quasi un ragazzo, veniva sedotto, o meglio, violentato, presso il letto di morte della madre da un'amica di lei. Nello stesso istante, senza sapere perché, fu costretto a pensare a sua moglie. Sentì affiorare un senso di amarezza nei confronti di Albertine e un sordo rancore contro il signore con la borsa da viaggio gialla sulla scala dell'albergo in Danimarca. Attirò più fortemente a sé Marianne, ma non provò la minima eccitazione. Anzi, la vista dei capelli opachi e aridi e l'odore dolciastro e stantio del suo abito gli diedero una leggera ripugnanza. In quel momento suonò il campanello. Si sentì come liberato. Baciò in fretta la mano di Marianne, quasi per riconoscenza, e andò ad aprire. Sulla soglia apparve il dottor Rödiger, cappotto grigio scuro, soprascarpe, ombrello in mano, l'espressione del viso grave e adatta alla circostanza. I due uomini si scambiarono un cenno di saluto, più confidenziale di quanto lo richiedessero i loro rapporti reali. Entrarono poi nella stanza. Rödiger fece le condoglianze a Marianne dopo aver gettato uno sguardo imbarazzato al morto. Fridolin andò nella camera accanto per redigere il certificato di morte. Alzò la fiamma della lampada a gas sulla scrivania e il suo sguardo cadde sull'immagine dell'ufficiale in uniforme bianca che, brandendo la sciabola, galoppava giù per la collina contro un nemico invisibile. Il quadro era racchiuso in una sottile cornice di oro brunito e non faceva un effetto molto migliore di una modesta oleografia. Fridolin ritornò col certificato di morte nella stanza dove i fidanzati, la mano nella mano, sedevano presso il letto del padre. Suonò di nuovo il campanello. Il dottor Rödiger si alzò e andò ad aprire. Nel frattempo, lo sguardo fisso a terra, con un filo di voce, Marianne disse: «Mamma». Fridolin replicò, pronunciando non senza tenerezza il nome di Marianne. Rödiger ritornò con una coppia di coniugi anziani. Erano lo zio e la zia di Marianne. Si scambiarono alcune parole di circostanza con l'impaccio che la presenza di un uomo morto da poco suole diffondere intorno. La piccola camera sembrò improvvisamente come affollata di gente. Fridolin ebbe l'impressione di essere di troppo. Si congedò e venne accompagnato da Rödiger, che ritenne di dover dire alcune parole di ringraziamento ed espresse la sua speranza di incontrarlo presto di nuovo. Davanti al portone, Fridolin alzò gli occhi verso la finestra che aveva aperto poco prima. Le imposte oscillavano lievemente al vento quasi primaverile. Coloro che erano rimasti di sopra, i vivi come il morto, gli sembravano ora spettralmente irreali. Aveva l'impressione di essere sfuggito non tanto malinconico incantesimo che non era riuscito a soggiogarlo. L'unica conseguenza era una strana avversione a ritornare a casa. La neve per le strade si era sciolta. A destra e a sinistra si vedevano piccoli mucchietti di un bianco sporco. Le fiammelle a gas dei lampioni oscillavano. Da una chiesa vicina rintoccarono le 11. Fridolin decise di trattenersi ancora un po' nel tranquillo angolo di un caffè vicino a casa sua prima di andare a dormire e si incamminò attraverso il parco del municipio. Sulle panchine in ombra sedevano qua e là coppie abbracciate, come se fosse già veramente primavera e l'ingannevole aria calda non fosse pregna di pericoli. Su una panchina stava disteso un uomo piuttosto cencioso, il cappello tirato sugli occhi. «Se lo svegliassi», pensò Fridolin, «e gli dessi i soldi per procurarsi da dormire stanotte? Ah, a che servirebbe?» riflette ancora. «Allora dovrei provvedervi anche domani, altrimenti non avrebbe alcun senso, e alla fine si potrebbe pensare che io abbia con lui dei rapporti equivoci». Accelerò il passo come per sfuggire il più presto possibile a ogni specie di responsabilità e tentazione. «Perché proprio quello?» si domandò. Nella sola Vienna vivono migliaia di poveri diavoli come lui. Se ci si volesse prendere cura di tutti, del destino di tutti gli sconosciuti. E gli venne in mente il morto che aveva appena lasciato. Pensò con un certo raccapriccio e non senza disgusto che in quel corpo magro allungato sotto la bruna coperta di flanella la decomposizione, ubbidendo a leggi eterne, aveva già iniziato la sua opera. Si rallegrò di essere ancora vivo e, con ogni probabilità, ancora lontano da tutte quelle cose spiacevoli. Era ancora nel pieno della giovinezza, marito di una donna amabile e attraente. Si sapeva capace di procurarsi anche altre donne, solo che ne avesse avuto voglia. Certo, per uno svago del genere ci sarebbe voluto più tempo libero di quanto gli era concesso. Si ricordò che l'ultima mattina alle 8 doveva trovarsi nel suo reparto. Dalle 11 all'1 andare a visitare pazienti privati, il pomeriggio dalle 3 alle 5 ricevere nel suo studio e che anche nelle ore serali lo attendevano alcune visite a domicilio. Comunque, sperava che almeno non lo venissero a chiamare di nuovo a sera tarda, come era accaduto oggi.